Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Cammino di Gigi D'Agostino. Cammino di Gigi D'Agostino. Cammino di Gigi D'Agostino. Cammino di Gigi D'Agostino. Cammino di Gigi D'Agostino. Cammino di Gigi D'Agostino. Essere buono in campagna. Là non ci sono tentazioni. Oscar Wilde. Buongiorno a tutti, questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Iniziamo cammino? Se volete mandare i vostri SMS

e quindi niente. Dentro il sito c'è questo forum che è uno dedicato alle persone che vogliono confrontarsi, che litigare anche a volte a tempo, che vogliono raccontare delle robe o vogliono semplicemente curiosare o magari vogliono sapere qualcosa in più su quello che riguarda la mia musica, le mie storie, tutte queste robe qua, oppure l'organizzazione io a volte mi inizio a dire le cose e so precisamente cosa accade. Poi mentre poi e poi dopo e non so neanche più io né cosa sto dicendo e questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Una grande famiglia danzante. Ti vedi? Il cammino di Gigi D'Agostino. Una grande famiglia danzante. Una panchina danzante. Vabbè. Dove è andata Elena Tanz? Dobbiamo annunciare le serate di questo weekend, cioè dove io, perché io faccio il disc jockey. La cosa? Elena, sei pronta? Sì, il cammino e Gigi D'Agostino e Gigi D'Agostino vi aspettano a colpi di martello in Austria. Sabato 28 ottobre, Disco Fire and Ice, Solden, Austria. Solden, Austria. Età per lasciarsi trasportare dal lento e violento. Se te lo senti, te lo senti. Sì. Te lo senti. Questo è il momento. Halloween elettronico 2006, il nostro raduno di quest'anno in Svizzera, ma a pochissimi chilometri dalla dogana, quindi vicinissimo all'Italia. Dagli un po' tutte le, cioè, informa. La notte di Halloween, Meeting Center Iragna. Meeting Center Iragna, presso il campo sportivo di Iragna, Canton Ticino, Svizzera. Just Il cammino di Gigi D'Agostino. Musica che unisce. Se volete scrivermi, il numero di telefono per mandare i vostri sms è il seguente: 333-64-67-662. 333-64-67-662. 333-64-67-662. 3 3 3 6 4 6 7 6 6 2. 3 3 3 6 4 6 7 6 6. Mi leggo una citazione. Al giorno d'oggi la gente è così superficiale che non riesce a capire la filosofia del superficiale. Oscar Wilde. So crazy lately, nothing seems to be going right. So low, I watch your head to get so low. You're so, you've been waiting in the sun too long. But if you sing, I'm

M2O, musica allo stato puro. Il cammino di Gigi D'Agostino. Una grande famiglia danzante. Mixata, va. Sì, sì, ho capito. Il cammino di Gigi D'Agostino. Per un'ora al giorno tutti i problemi che ci sono intorno andranno a dormire, potranno sparire. Visto è tu cammino, no, no, di Gigi, Gigi, Gigi D'Agostino. Il cammino e Gigi D'Agostino vi aspettano a colpi di martello in Austria. Sabato 28 ottobre, disco Fire and Ice, Solden, Austria, Austria. Voglio essere preciso. Gigi D'Agostino, una fragranza per l'ambiente. Il numero di telefono per mandare i vostri sms è il seguente: 333-64-67-662. Potete dire quello che volete a chi volete. Attraverso questo cammino potete lanciare il vostro pensierino. Sì, vabbè. No, poi dicono che non so fare le rime. Cammino e Gigi D'Agostino vi aspettano a colpi di martello. Meeting Center Iragna, presso il campo sportivo di Iragna, Canton Ticino, Svizzera. La notte di Halloween, martedì 31 ottobre. Faremo ballare anche le streghe. Bogacci, via questo. Il cammino di Gigi D'Agostino. La radio a colori. Passeggiare ovunque, mi piace pasticciare con i miei colori anche fuori dal foglio. Mi piace guardare altrove. Mi piace esagerare. Rischiando di capire chi sono. Gigi D'Agostino. il gattino. Il gattino. Gigi D'Agostino, se può ti informa durante il cammino. Per maggiori informazioni sulle sue serate e sui suoi brani, clicca sui tasti, ma usa le mani. www.gigidagostino.com. Vai nel suo forum e inizia a cercare. Se proprio non trovi, ti fai aiutare. Sono Gigi D'Agostino e questo è il mio cammino. Si sente? Un altro modo di fare musica. Hai capito? Like a river that goes to the sea, this is the way that it has to be. Like a sun that shines only Gigio. Mettiamo un disco. Io non voglio limitare le strade al mio universo interiore e neanche al mio ascoltatore. Il cammino di Gigi D'Agostino. Musica che unisce. Cammino di Gigi D'Agostino, ogni giorno alle 18, su M2O. Ci fermiamo quel minimo, riprendiamo il cammino tra qualche minuto. Si riparte. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Like a star, you're so far. M2O. Musica allo stato puro. Se volete scrivermi, il numero di telefono per mandare i vostri SMS è il seguente: 333-64-67-662. 333-64-67-662. L'unica differenza fra un santo e un peccatore è che ogni santo ha un passato e tutti i peccatori hanno un futuro. È forte questo. Oscar Wilde. Stiamo percorrendo il cammino di Gigi D'Agostino. Ogni giorno alle 18 su M2O. Tratta artisticamente la sua vita, il suo cervello e il suo cuore diventano una cosa sola. Oscar Wilde. Ma non nel senso che diventano Oscar Wilde, si era capito, no? Sì. No, vabbè, mi piace essere preciso. Gigi D'Agostino, una buona occasione per diventare tamarri. Gigi D'Agostino vi saluta tanto tanto tanto tanto.